Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Dopo il fotovoltaico stampabile di ieri, torniamo a Milano all'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, per parlare di un nuovo tipo di celle solari molto promettenti, dette celle a perovskite, con riferimento alla particolare struttura cristallina che prende il nome da un minerale, la perovskite appunto, e celle che si possono ottenere a partire da materie prime largamente disponibili. Ma il fatto più sorprendente è che, nonostante gli studi sulle celle alla perovskite siano appena agli inizi, si è già raggiunto un rendimento di conversione della luce in energia elettrica del tutto analogo a quelle delle celle in silicio in commercio, sulle quali si investono miliardi di euro e si fa ricerca da anni. Di recente proprio uno studio dell'IIT in collaborazione con l'Università di Oxford ha aggiunto un pezzo di conoscenza a quanto già sappiamo di questo peculiare cristallo. Non entriamo nei dettagli di questo studio stasera, ma la sua principale autrice, Anna Maria Petrozza, è in linea con noi per parlarci delle celle a perovskiti e delle loro prospettive. Buonasera Petrozza. Buonasera. Allora, dunque Petrozza, si fa tantissima ricerca sulle tecnologie fotovoltaiche e i candidati che nel tempo si sono appunto candidati a sostituire il silicio sono tanti. Alla fine però siamo ancora qui con il silicio. Allora, che cosa rende così interessanti le celle alla perovskite? Perché c'è molto interesse intorno a questo materiale. Sì, la tecnologia è molto giovane, le prime dimostrazioni sono state fatte forse 2 anni fa, 1 anno e mezzo pochissimo, fa, 2 anni fa, e diciamo i dati di fatto sono, come dicevi anche tu prima, un'efficienza molto competitiva. Nel giro di 1 anno e mezzo siamo passati dal 10% al 16% certificato proprio 2 settimane fa. E degli effettivi bassi costi di produzione, senza dover neanche fare delle grandi approssimazioni, ma un'analisi dei costi anche su larga scala ci porta a stimare quasi un costo di 1 centesimo per watt picco. Addirittura, insomma, esatto. Quindi 1/20 di quello che è il livello attualmente raggiunto dal silicio praticamente. Quindi per via dei materiali, per via immagino del processo che richiede magari poca energia, di no? Produzione, esattamente. Sono processi che avvengono a bassa temperatura, che possono ambire a delle deposizioni su larga scala. Sono adatti a essere fatti in larga scala. Esatto. Okay. Quindi oltre a questi dati di fatto, che sono effettivamente un'alta efficienza e dei bassi costi di produzione che rispondono bene alla filosofia della terza generazione del fotovoltaico, ciò che è anche di interesse è il fatto che effettivamente io non posso ancora parlarvi di un'architettura del dispositivo vincente, perché non sappiamo quale sia. Perché non sappiamo quali sono effettivamente i processi di funzionamento, i meccanismi di funzionamento di questo dispositivo. Cioè, in realtà sappiamo pochissimo su che cosa succede, esatto, là dentro. Non sappiamo, esatto, esattamente neanche quale fra i vari meccanismi possibili, fisicamente possibili, trasforma effettivamente l'energia elettromagnetica della luce in differenza di potenziale, insomma in energia elettrica. Non sappiamo, esatto, nemmeno questo, eppure ci sono già questi risultati molto, molto elevati, no? E questo di efficienza. Porta, questo nuovo campo a una sorta, se mi permetti l'espressione, di parco giochi, per certo, fisici, chimici, ingegneri, perché nell'ultimo 1 anno e mezzo forti anche un po' del know-how sviluppato precedentemente nel campo dell'elettronica organica, delle celle a colorante, quindi tutte queste conoscenze, è stata una cross-fertilizzazione, che include anche addirittura un know-how nelle celle fin film, nei dispositivi fin film, quindi ha movimentato un po' tutto, okay, il campo. Insomma, tante competenze acquisite in campi limitrofi stanno tornando, esatto, utili, esatto, con le perovskiti, per cui questo accelera questo molto il processo di innovazione, esatto, no? È un po' questo. Ecco, però ci sono dei problemi, no, da risolvere. Sì, ovviamente c'è ancora del lavoro da fare. Che la comunità al momento sta lavorando anche molto sulla stabilità di questi materiali. Sì, e, nel tempo, dopo un po' perdono efficienza. Sì, e anche ovviamente nel rendere questi materiali più green possibili. Sì. Al momento i più performanti presentano nella parte, sono dei cristalli ibridi, quindi con una componente organica basata fondamentalmente su atomi di carbonio e una componente inorganica che prevede un atomo metallico e degli atomi alogeni. Il metallico adesso è il piombo. Il piombo, ovviamente, che è il piombo non ci piace, quindi no. Diciamo i chimici stanno lavorando proprio su questo, sul riuscire a sostituire questo elemento. Grazie Anna Maria Petrozza. Ringrazio te. Ci fermiamo qui, appuntamento ai primi di gennaio. A voi tutti buone feste, buon Natale, buon inizio anno nuovo.